Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. È l'inizio della settimana del ritorno alla normalità, infatti ritorniamo ai 5 giorni, da lunedì al venerdì, tra le 19 e le 20. Questa è Eclettica, questo è Giulio Caperdoni, soprattutto questa è Rock FM. Eclettica che vi tiene compagnia anche nel 2008 con le sue scelte di musica, le sue scelte di letture, le sue scelte di sprazzi cinematografici. Eclettica che vi tiene compagnia con la sua atmosfera. Vadigno, il primo marito di Donna Flor, morì a Carnevale, una domenica mattina, mentre ballava un samba vestito da baiana in largo 2 luglio, non lontano da casa sua. Non apparteneva al gruppo, ci si era semplicemente aggregato, con altri 4 amici tutti vestiti da baiana e tutti provenienti da un bar della zona del Cabeça, dove il whisky correva a fiumi, alle spalle di un certo Moisè Salvesh, piantatore di caffè, ricco e spendaccione. Questo era l'incipit di Donna Flor e i suoi 2 mariti, di Jorge Amado. stick this clothespin on his nose. And when he opens up his mouth, go ahead and pour it on down his gut. Oh, and stand back. Ora vi racconto quanto mi è successo l'altro giorno. Ero nella mia città, città in cui non arrivano le frequenze di Rock FM, quindi ero assolutamente certo che non potesse essere una qualche replica di Eclettica fuori orario tradizionale. Entro per comprare un giornale. Nel momento in cui mi sto apprestando a pagare, mi rendo conto che in sottofondo, da una radiolina posta dietro la ragazza a cui sto dando i soldi, arriva una musica che riconosco. È la canzone che vi siete appena ascoltati, ovvero sia Satellite dei Guster. Allora chiedo alla ragazza: scusa, ma su che radio sei sintonizzata? E lei mi risponde: Radio DJ. Allora pago e me ne vado con un sorriso a 32 denti. È quello che mi succede tutte le volte che sento una canzone legata ad Eclettica su altre frequenze. E Satellite è una canzone che compare ormai da mesi all'interno delle playlist di questa trasmissione. Invece compare solo da poche settimane la canzone che ha aperto, una canzone di cui non tento neanche di dare il titolo visto che è in giapponese, del duo Tennis Coats. per proseguire ora invece con una canzone di cui non darò comunque il titolo, anzi sono due le canzoni, una è una breve intro, visto che è in portoghese, in brasiliano per la precisione, il disco d'esordio di una giovane artista il cui nome è Seu. Lei sta per prendere il posto, così dice la critica in Brasile, di Cybele, seppur giovane, che comunque conosciamo bene qua in Eclettica, perché pochi anni fa ce l'eravamo ascoltati, soprattutto con una cover di un brano dei Nirvana. Lei è Seu. Fique esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante, num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda. Fique esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante, num instante você vira sapo. Bobeou na crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda. Seu nome ri na boca do sapo e sua boca na esperto, hoje não tem papo. Jogo-lhe um quebrante, num instante você vira sapo. Rubiou na crença, príncipe, volta ao seu posto de lenda. Seu nome ri na boca do sapo e sua boca na seu plantado, fica acerca de mim. Seu nome na boca do sapo, sua boca na minha. O resto é boi dormindo, história errada é de carochinha. Thank you. Questa storia d'amore, per una strana coincidenza, direbbe Donna Arminda, iniziò nello stesso giorno limpido, con sole primaverile, in cui il fazendeiro Gesuinho Mendonça uccise a rivoltellate Donna Signasinha Guedes Mendonça, sua legittima sposa, dama della migliore società locale, bruna, piuttosto grassa, molto dedita alle attività parrocchiali, e il dottor Osmundo Pimentel, chirurgo dentista, stabilitosi a Ileus da pochi mesi, giovane elegante, con atteggiamenti da poeta. Inoltre, in quel mattino, prima che la tragedia sconvolgesse la città, la vecchia Filomena aveva attuato una sua antica minaccia. Era partita con il trenino delle 8 per Agua Preta, dove aveva fatto fortuna un suo figlioccio, piantando in asso l'arabo Nacib, presso cui faceva la cuoca. Questo era l'incipit di Gabriella, Garofano e Cannella, di Jorge Amado. Tell me what the facts be. They be my past me. Audacity and something subtracts. Thank you. reflex action. It's gonna take a few more minutes for the stuff to really clear up his head.